24? Non è già andata. 23 o 24? 24, seconda parte. Passo a brutalizzarvi direttamente con il testo di Lévi-Strauss. Allora, rileggiamo le ultime frasi di quello che ha detto prima. Tutte le operazioni magiche riposano sulla restaurazione di una unità non già perduta, perché niente è mai perduto, ma inconscia o meno interamente cosciente di queste stesse operazioni. La nozione di mana non appartiene all'ordine del reale, ma a quello del pensiero, che anche quando pensa a se stesso, non pensa se non un oggetto. Non pensa se non un oggetto. Arriviamo al punto. È in questo carattere relazionale del pensiero simbolico che possiamo cercare la risposta al nostro problema. È in questo carattere relazionale del pensiero simbolico che possiamo cercare la risposta al nostro problema. Quali che siano stati il momento e le circostanze della sua apparizione nella vita animale, il linguaggio è nato necessariamente tutto d'un tratto. Quali che siano il momento e le circostanze della sua apparizione nella vita animale, il linguaggio è nato necessariamente tutto d'un tratto. È impossibile che le cose abbiano cominciato a significare progressivamente. In seguito a una trasformazione il cui studio non dipende dalle scienze sociali, ma dalla biologia e dalla psicologia, si è verificato un passaggio in cui niente aveva un senso a un altro, in cui ogni cosa ne possedeva uno. Questa osservazione, in apparenza banale, è importante, perché questo cambiamento radicale non ha contropartita nel campo della conoscenza, la quale, al contrario, è sottoposta a una elaborazione lenta e progressiva. In altre parole, nel momento in cui l'universo intero d'un colpo è diventato significativo, non è stato per questo meglio conosciuto, anche se è vero che l'apparizione del linguaggio doveva precipitare il ritmo dello sviluppo della conoscenza. Esiste dunque una opposizione fondamentale nella storia dello spirito umano tra il simbolismo, che offre un carattere di discontinuità, è quello che io sinora ho chiamato senso, lui lo chiama simbolismo qua, ma tutto quello che io prima ho detto sul senso si riferisce a questo. Esiste dunque una opposizione fondamentale nella storia dello spirito umano tra il simbolismo, che offre un carattere di discontinuità, e la conoscenza, contrassegnata dalla continuità. Che cosa ne deriva? Il fatto è che le due categorie del significante e del significato si sono costituite simultaneamente e solidalmente, significante e significato, le due facce del foglio di carta, simultaneamente e solidalmente come due blocchi complementari, ma la conoscenza, e cioè il processo intellettuale che permette di identificare gli uni rispetto agli altri, taluni aspetti del significante e taluni aspetti del significato, si potrebbe anche dire di scegliere nell'insieme del significante e nell'insieme del significato le parti che presentano tra loro i rapporti più soddisfacenti di convenienza reciproca, la conoscenza si è messa in cammino molto lentamente. È accaduto come se l'umanità avesse acquistato di colpo un immenso dominio e il suo schema dettagliato, insieme con la nozione del loro rapporto reciproco, ho letto proprio di merda, è accaduto come se l'umanità avesse acquistato di colpo un immenso dominio e il suo schema dettagliato, insieme con la nozione del loro rapporto reciproco, ma avesse impiegato dei millenni per apprendere quali simboli determinati dello schema rappresentavano i diversi aspetti di quel dominio. Rileggo perché ho fatto uno schifo. È accaduto come se l'umanità avesse acquistato di colpo un immenso dominio e il suo schema dettagliato, insieme con la nozione del loro rapporto reciproco, ma avesse impiegato dei millenni per apprendere quali simboli determinati dello schema rappresentavano i diversi aspetti di quel dominio. L'universo ha avuto un significato molto tempo prima di sapere, che molto tempo prima che si sapesse che cosa significava. L'universo ha avuto un significato molto tempo prima che si sapesse che cosa significava, ciò è pacifico. Ma dall'analisi precedente risulta anche che ha significato sin dall'inizio la totalità di ciò che l'umanità può attendersi di conoscere. Ciò che viene chiamato il progresso dello spirito umano e in ogni caso il progresso della conoscenza scientifica non poteva consistere e non potrà mai consistere che nel correggere frazionamenti, nel procedere a raggruppamenti, nel definire appartenenze e nello scoprire risorse nuove in seno a una totalità chiusa e complementare a se stesso. Vedo lì gli sguardi perplessi. È chiaro che lo dite? L'universo, con il linguaggio, l'universo ha acquisito un senso tutto un po'. Un senso. L'universo ha un senso, la coscienza che il mondo abbia senso, la coscienza che ci sia un rapporto tra significanti e significato. Tutto questo è un processo discontinuo, dice lui. Noi sappiamo che, alla luce delle prime lezioni, sappiamo che è discutibile, o che perlomeno si può discutere quanto sia discontinuo, eh? Però per come lo intende lui, anche un continuista come me è diciamo, disposto a concedergli questo, che dal punto di vista degli effetti il linguaggio rappresenta una discontinuità tra noi e il resto del regno animale. No? Che poi il linguaggio abbia una fondazione biologica, un fondamento biologico, e che quindi in ultima analisi possa essere visto, letto e spiegato, riconosco. Però è vero che comunque è un effetto biologico, un effetto di un processo biologico che ha, diciamo, qualità differenti da quelle degli altri sistemi, degli altri rapporti delle altre specie animali con il mondo. Quindi il senso, quello che lui chiama il simbolismo, il carattere simbolico, insomma, è qualcosa che avviene d'un botto, tutto d'un tratto, è una discontinuità, è quello che appunto è quello che gli scienziati e purtroppo ahimè, i transumanisti oggi chiamano singolarità. È una singolarità, è un punto in cui la curva si avvicina ad una tangente verticale, eh? Per piccolissimi incrementi dell'asse X la Y parte, spara, va sempre più rapida e si avvicina sempre di più a questa retta verticale, è un punto indefinibile, non è diciamo. Allora, se vogliamo fare se vogliamo usare la metafora in matematica, usiamo. Ok? Tangente verticale. Nel punto P con 0 c'è una tangente verticale. Nel punto P con 0 il valore della funzione non esiste, perché è infinito. Ma, La tangente io lo vedo subito, eccola lì. No? Lo vedete? Tutti la vediamo. Un botto. Non bisogna camminare sulla curva per vedere la tangente. O si riduce la distanza, o si riduce, questa sarà una retta tangente, dice il puntolino che cammina sulla curva. Ma noi che siamo fuori guardiamo e diciamo cazzo, è una tangente. Cioè diciamo, è quello che Lévi-Strauss dice, il simbolismo è comparso tutto in un botto. ma la conoscenza è diversa. Per andare a sapere qual è il valore della curva della funzione y uguale a f di x, questo è x, ragazzi, tutti lo sappiamo, questo è x, questa è una funzione che ha una tangente verticale, punto di discontinuità. Per sapere il valore della funzione, dei singoli valori di x, x1, x2, y1, y2, devo andare a fare le misure. Questo quindi lo so a tratti, questa è la conoscenza. Questa è la conoscenza. Questo è il simbolismo. Lo sappiamo. Un botto. Ho la percezione che la totalità da qualche parte c'è, no? Ma quando devo andare a descriverla concretamente, devo camminare sulla curva, devo fare un passetto dietro l'altro, devo. Quando devo andare a vedere, come dice, quando devo andare a identificare taluni aspetti del significante e taluni aspetti del significato, o quando devo scegliere nell'insieme del significante e nell'insieme del significato le parti che presentano tra loro i rapporti più soddisfacenti di convenienza reciproca, questo è un processo lungo, graduale, continuo, o discontinuo, diciamo, se però è continuo nel senso che non è di un botto come l'altro. Però l'esistenza della tangente, potevo anche non farla verticale, la tangente, questo va per qualsiasi, potevo pure farla, però insomma, quella verticale è interessante perché se la tangente non è verticale non ho un singolo punto dell'asse x in cui c'è stato tangente, no? Se va all'infinito pure lei. Invece il caso della tangente verticale è interessante perché va all'infinito la y, ma la x ha un valore finito. Questa è la pizzeria della cosa. Che una tangente, che una curva, che il valore di una corrispondenza tenda all'infinito quando tende all'infinito la variabile, cioè ovvio, cioè qualsiasi persona, ma che una curva tenda all'infinito quando la x si avvicina ad un valore finito, questo è complicato. La x tende ad un valore finito, la y non va all'infinito. Questo è infatti il caso della tangente verticale, nell'analisi matematica è il caso di una funzione con discontinuità, cioè una discontinuità. Addirittura certe curve, sapete che sono fatte così, che a sinistra della tangente si comportano in questo modo, sì, e a destra della tangente in quest'altro, quindi vanno da più infinito a meno infinito e ci vanno in un botto. Prima sale, perché come cazzo farà? Però l'iperbole funziona così. Che l'iperbole appunto è semplicissima. Definita dalla relazione y uguale 1 su x al limite di qualche cosa. È una relazione molto semplice, ma nel punto 0, quando x vale 0, adesso non vale 0, qua traslate la sigla, quando x vale 0 o vale il valore che annulla quella roba lì, il comportamento della curva è questo. Ma voi mi dite cosa c'entra il significato fluttuante? Adesso ci arriva. Però intanto abbiamo messo un punto. Apparentemente siamo molto lontani dal mana. Perché c'era il mana, ricordate. No. In realtà molto vicini, dice Lévi-Strauss, che si diverte a tormentarci e a prenderci in giro. Infatti, benché l'umanità abbia sempre posseduto una massa enorme di conoscenze positive, e le diverse società umane abbiano dedicato in maggiore o minore misura degli sforzi per mantenerle e svilupparle, è solo in un'epoca molto recente che il pensiero scientifico si è installato da padrone e sono apparse forme di società in cui l'idea intellettuale e morale, contemporaneamente ai fini pratici, perseguiti dal corpo sociale, sia organizzata intorno alla conoscenza scientifica, scelta come centro di riferimento in maniera ufficiale e riflessa. La differenza è di grado, non di natura, ma esiste. Possiamo perciò attenderci che il rapporto tra simbolismo e conoscenza, con i termini, diciamo, di caronia, tra senso e significazione, possiamo perciò attenderci che il rapporto tra simbolismo e conoscenza conservi caratteri comuni nelle società non industriali e nelle nostre, anche se con accentuazioni diverse. Qui è l'universalista che parla. Non si scava un fosso tra le une e le altre, riconoscendo che il lavoro di perequazione del significante in rapporto al significato è stato perseguito in modo più metodico e rigoroso a partire dalla nascita e nei limiti di espansione della scienza moderna. La scienza moderna ha fatto un grosso lavoro di avvicinamento, di adeguamento, di identificare taluni aspetti delle significanze con taluni aspetti del significato. Ma dappertutto altrove e costantemente ancora presso di noi e per lunghissimo tempo certamente permane una situazione fondamentale che dipende dalla condizione umana. L'uomo dispone cioè, sino dalla sua origine, di una integralità di significante che lo pone in grande imbarazzo quando deve assegnarlo a un significato dato come tale senza essere per questo conosciuto. Il significante c'è già tutto, perlomeno potenzialmente, ok? Ma io non so sempre a quale significato accoppiare quel significante. Tra i due, significante e significato, c'è sempre una inadeguazione, riassorbibile soltanto per l'intelletto divino, e che risulta nell'esistenza di una sovrabbondanza del significante in rapporto ai significati sui quali essa può collocarsi. Nel suo sforzo di comprendere il mondo, l'uomo dispone dunque costantemente di una eccedenza di significazione, che ripartisce tra le cose, secondo certe leggi del pensiero simbolico, il cui studio è riservato agli etnologi e ai linguisti. Questa distribuzione di una razione supplementare, se è lecito esprimersi così, è assolutamente necessaria affinché in complesso il significante disponibile e il significato individuato restino nel rapporto di complementarità, che è la condizione stessa dell'esercizio del pensiero simbolico. Va bene, non va bene? Devo spiegare, cosa devo fare? Spiegare. Allora, se il simbolismo del mondo, ovvero sia il suo senso, è dato sino dall'inizio come una totalità, ma gli accoppiamenti tra significanti e significato, invece, tra significanti e significati invece, sono un processo lungo che avviene nel tempo, ciò ha delle conseguenze. Come è possibile? Adesso lui non lo dice, ma questo lo dice Caronia, commento di Caronia. Potrebbe essere che si creino sempre dei nuovi significanti e si attribuiscano ai diversi significati? No, perché non è possibile. Perché se io creassi ex novo dei significanti nuovi in un modello, un sistema simbolico, vorrebbe dire che non c'era senso in quello precedente, perché ci mancavano delle cose. Attenzione, questo non vuol dire che io conosco fino all'inizio tutte le frasi e tutte le parole possibili che posso dire con il linguaggio, ma con il linguaggio io ho i mattoni di base per costruire tutti i significanti possibili, quindi è come se fossero dati sino dall'inizio, basta che io abbia i 25, 27, 28, 30 suoni della mia lingua e so che posso costruire qualunque significante. Quindi il significante e il significato sono già dati tutti e due. Che cos'è che non è dato allora? Che cos'è che ci manca? Perché il simbolismo è già tutto lì e la conoscenza è lunga, graduale, rompicoglioni e mi costringe a fare un sacco di lavoro cioè terribile a scrivere dei libri e a e così per ironia ad insegnare nei corsi. Perché? Perché bisogna creare dei nuovi significanti? No! Perché l'insieme dei significanti è sovrabbondante rispetto al significato. Ci sono sempre troppi significanti e io non so bene quale significato abbiano. I significanti ci sono già, perché il dispositivo della lingua è già dato e io posso costruire tutti gli enunciati che voglio. E quindi costruisco e quindi faccio come il signor Chomsky e sulle pagine di un libro scrivo: idee verdi dormono furiosamente. E perché lo faccio? Qual è il significato di questa frase? Beh, idee verdi dormono furiosamente. Il significato, diciamo, lo scopo di Chomsky è quello di rompere i coglioni agli altri linguisti e quello di dimostrare loro che c'erano delle cose specifiche che non vi so dire. Comunque questo è effettivamente un esempio che Chomsky usa in un suo saggio, diciamo, linguistico. Ma questo per dire, no, idee verdi, no, green ideas sleep furiously, così è in originale. Green ideas sleep furiously. Questo è un significante. Un significante è in eccesso. Non c'è significato ancora. Devo trovarlo, devo costruirlo. Tutto lì, tutto lì. Lui mi sta dicendo questo, mi sta dicendo che il carattere progressivo o comunque continuo o comunque cumulativo o comunque protratto nel tempo o comunque incompleto dei processi conoscitivi deriva dal fatto che c'è un'eccedenza del significante, che c'è un significante eccedente rispetto al significato. Chi di voi ha seguito le prime lezioni, quindi non tutti, si ricorderà che io ho fatto questo curioso diagrammino: linguaggio, mondo. Vi ho detto, non ci sarà mai una sovrapposizione totale, completa e trasparente tra il linguaggio e il mondo. Perché il linguaggio, perché ci sono una serie di cose del mondo che il linguaggio o non è in grado o non ha ancora descritto. Ma ci sono altrettante cose nel linguaggio che eccedono il mondo. Questo è il significato culturale. Quella parte di linguaggio che non è ancora sovrapposta a un mondo. I due insiemi, i due diagrammi di Venn degli insiemi, sono mobili, sono mobili. A volte vanno indietro però, non parlo sempre del senso di integrazione, a volte si allontanano. A volte si conoscono meno cose di quelle che sapevano prima. Addirittura gli antichi greci erano convinti che si fosse partiti da una identificazione totale, che gli antichi egizi sapessero già tutto quello che c'era da sapere. E tutto il pensiero della destra, diciamo, radicale contemporanea in Europa continua a pensarla così, che ci sia una sorta di mitica conoscenza, il re del mondo, reneghe no, che sia un complotto. I migliori complottisti sono quelli di destra, più che quelli di sinistra. O quelli che non sono né di destra né di sinistra, come William Burroughs. La sinistra non ce la fa essere complottista, perché è troppo. E non gli piace neanche tanto il significante fluttuante alla sinistra, devo dire. Noi crediamo che le nozioni di tipo mana, ecco perché il mana, adesso vedete perché il mana. Noi crediamo che le nozioni di tipo mana, per quanto diverse possano essere, considerate nella loro funzione più generale, che come abbiamo visto non scompare nella nostra mentalità e nella nostra forma di società, rappresentino esattamente quel significante fluttuante che costituisce la servitù di ogni pensiero compiuto. Che costituisce la servitù di ogni pensiero compiuto, ma anche la garanzia di ogni arte, di ogni poesia, di ogni invenzione mitica o estetica. E già, se non ci fosse l'eccedenza del linguaggio sul mondo, come potrei creare? Come potrei raccontare qualcosa? Anche qualcosa che è avvenuto, anche nel racconto di qualcosa che è avvenuto. Avete visto Rashomon? Quel film di Kurosawa, bianco e nero, in TV, qualche notte. Rashomon è una storia, racconta la storia uno stupro straordinario. Cioè, non è raccontata da 7 persone diverse che l'hanno vissuta in 7 modi diversi. E a ogni racconto, a ogni linguisticizzazione, a ogni linguizzazione, a ogni resa linguistica di questa storia, la storia cambia, perde dei particolari, ne acquista di nuovi, si vede le cose da un altro punto di vista. Il linguaggio è fatto così. Nessuna persona ti racconterà mai. Adesso uscite di qua tutti quanti, ognuno di voi trova un amico che odia particolarmente e gli racconta la lezione di casa mia, scusami, gli diamo un po' di sofferenza, mica sofferenza con noi, anche gli altri. Bene, da quanti siete? 15, 12, quanti cazzo sarete? Usciranno 12 racconti diversi. Ma non perché uno è più cretino di un altro, perché siete disonesti, no, perché state tutti filtrando quello che io dico, ecco perché sostengo che insegnare è una missione impossibile, non si insegna nulla. Io non sto insegnando niente. Ognuno di voi sta imparando o sta elaborando, sta facendo delle cose, state lavorando, ma avete ognuno di voi, come avete tutti una testa diversa, un cervello diverso, con la stessa biochimica, con lo stesso schemino di base dei neuroni, e avete sinapsi diverse in posti diversi, lievemente mica tutti nello stesso posto. E quindi state, ognuno di voi sta elaborando, acquisendo e conoscendo qualche cosa in modo diverso dal resto degli altri. Quindi ognuno di voi racconterà una lezione diversa al suo amico. Quello sarà, se poi speriamo che questi amici non la raccontino ad altri, no, questa è l'esplosione combinatoria. E come dice Barrows, come Barrows spiega che si è formato secondo lui il linguaggio, che è un virus extraterrestre, secondo Barrows, non so adesso di tutti, e anche io rido, però è meno scema di quello che sento. È più simile a certe tesi di Lacan, e si è diffuso per tutta l'umanità così, come un virus, spread out, disseminated. Tutto questo avviene perché c'è un significante fluttuante. Noi crediamo che le nozioni di tipo umana, per quanto questa è una rilettura, per quanto diverse possano essere, considerate nella loro funzione più generale, rappresentino esattamente quel significante fluttuante che costituisce la servitù. Perché dice che costituisce la servitù di ogni pensiero compiuto? Perché dice che il significante fluttuante rappresenta la servitù di ogni pensiero compiuto? Perché non rappresenta, cioè, veramente quello che pensiamo. È un po'. Perché noi facciamo pensieri molto più articolati di quello che poi esprimiamo. Come se non fosse. Completo. Come se non fosse? Completo, cioè. Sì, certo, che non è completo. Sì. Però. Va bene. Andiamo avanti. Cioè, arriviamo. Queste sono premesse, descrizioni un po' vaghe della cosa, ma però è una direzione giusta. Non serve interpretare il pensiero futuro con cose che non hanno ancora un significato simbolico. Perché in ogni. Perché in ogni pensiero compiuto non c'è la totalità del significante o delle funzioni reali, perché il significante fluttuante sta sempre fuori e come se stesse per entrare da un momento all'altro. Quindi ogni volta che io penso di aver formulato un pensiero compiuto, è quello che succede a me adesso che sto parlando, perché aggiungo sempre qualcosa? Perché sono sensibile, forse peggio di voi, anche in modo più patologico di voi, alla pressione del significante fluttuante, della, detto in altri termini, è la fascinazione che esercita su ognuno di noi il linguaggio come potenzialità. l'enorme potenzialità che ha il linguaggio. E ogni volta che uno parla, la dirò in modo diverso, perché se no non l'avrei mai detta così, e ogni volta che uno parla vorrebbe dire tutto, vorrebbe dire il mondo, vorrebbe dire l'universo, ma sa che non lo può dire, perché c'è un collo di bottiglia dato dal carattere esponenziale della produzione verbale. No? E quindi è per questo che ogni volta che uno parla sente di tradire qualcosa, di aver tradito quello che lui chiama il pensiero, che uno di noi chiama il pensiero. Ed è relativamente poco importante se poi sia vero o no, che noi nella nostra testa abbiamo una riserva, cioè che il pensiero eccede il linguaggio. La storia dei rapporti tra linguaggio e pensiero è antichissima, e io sono più propenso a pensare che non possa esistere un pensiero senza un linguaggio, ma certamente fra le tante catastrofi che ha combinato Freud e la psicanalisi, una non l'ha combinata, cioè da Freud in poi è chiaro che c'è una pluralità di contenuti psichici che non sono pensiero, che non sono coscienza, che non sono neanche precoscienza, come li vogliamo chiamare, ma questo è relativamente poco importante, perché anche se non fosse così, è la semplice potenzialità del linguaggio, cioè la semplice potenza, adesso uso potenza non nel senso di potenzialità, ma nel senso di macchina da guerra, è l'enorme, la potenzialmente infinita capacità del linguaggio che ci spaventa, e che però fa sì che ogni cosa che noi diciamo sia inadeguata rispetto a quello che colui che parla vuole dire. Perché non si può mai dire non solo tutto nello stesso momento, ma non si può mai dire tutto completamente, e non si può mai dire tutto come lo si vorrebbe. Io credo questa potrebbe essere una interpretazione possibile del perché Levito dice il significato fluttuante è la servitù di ogni pensiero compiuto. Poi dice, certo, da quando c'è la scienza, questo te l'ho detto prima, questo lavoro di accoppiare significati e significati è cresciuto enormemente, come rico. Però c'era anche prima, c'è in qualunque società, dice lui, c'è. In altre parole, e ispirandoci al precetto di Maus, che tutti i fenomeni sociali possono venire assimilati al linguaggio, questo detto da un antropologo è un'altra parte, sappiamo che Lévi-Strauss era tributario della linguistica. Allora, in altre parole, ispirandoci al precetto di Maus che tutti i fenomeni sociali possono venire assimilati al linguaggio, noi troviamo nel Mana, nel Wakan, nell'Orenda e tutte robe di questo stesso tipo. E in altre nozioni dello stesso tipo, l'espressione cosciente di una funzione semantica, di una funzione di attribuzione di significato, il cui ruolo consiste nel permettere al pensiero simbolico di esercitarsi, malgrado la contraddizione che gli è propria. Così si spiegano le antinomie, in apparenza insolubili, connesse a questa nozione, che hanno tanto colpito gli etnografi e che Maus ha posto in luce. Forza e azione, qualità e stato, sostantivo, aggettivo e verbo ad un tempo, astratto e concreto, onnipresente e localizzato. E infatti il mana è tutto questo insieme. E lo è appunto perché non è niente di tutto ciò, ma semplice forma, o più esattamente simbolo allo stato puro, suscettibile perciò di caricarsi di qualsivoglia contenuto simbolico. Nel sistema di simboli costituito da ogni cosmologia, esso sarebbe semplicemente un valore simbolico zero, cioè un segno che indica la necessità di un contenuto simbolico supplementare rispetto a quello di cui è già carico il significato, ma che può essere anche un valore qualunque, a condizione che faccia ancora parte della riserva disponibile e non sia, come dicono i fonologi, un termine di gruppo. Adesso evito di assillarvi anche con la fonologia, quindi dimenticatevi di quest'ultima cosa. Vi dirò solo che nel momento in uno dei commenti migliori che io conosca di questo pezzo di è quello di nella rotta del senso, un libro che sembra facile ma è casino, quindi non mi tormenterò neanche con quello. Più ancora della lettura che ne dà a Agamben, quella che ho dato io, che è super specialista signora. Deve sconnette, cioè tira fuori questa, tira fuori esattamente questa pagina che vi ho letto di Lévi-Strauss e di Montuante, nel momento in cui in logica, diciamo, del senso cerca di spiegare quello che lui chiama il senso, che però è più simile al processo di significazione, come ve l'ho detto io. E lui utilizza molto Alice, utilizza molto sia Alice in Wonderland che Through the Looking Glass, che è attraverso lo specchio, in un modo totalmente diverso da quello che mi ha detto, io non l'ho visto, ma da quello, dal modo in cui l'ha letta Tim Burton nell'ultimo film. Paradossalmente più vicino a quello di Walt Disney. Mi dicono, io non l'ho visto il film, quindi non so com'è il film di Burton, però mi dicono che Tim Burton ha praticamente eliminato tutta la parte logico-linguistica e ha già lasciato una parte di tipo più psicanalitico. Allora, Alice in Wonderland è un libro molto complesso, molto complicato e molto importante per la cultura occidentale, più di quello che si sia pensato quando è stato relegato al libro, per infanzia. Ed è così importante che un filosofo serio, anche se un po' eccentrico come era Deleuze, l'ha preso come guida per scriverci un libro. Insomma, la logica del senso è tutto basato su di un'analisi delle cose. E il punto in cui Deleuze introduce questa cosa è nel punto in cui parla della formazione del senso come di successioni, come di una insomma, successione diciamo, elementi. Anzi, dice lui, cioè, nel capitolo mi sembra 12 o 14, racconta e parla di due serie, della serie dei, diciamo, significanti e della serie dei significati e del tipo di accoppiamento che si può fare tra una e l'altra. Ora, Deleuze sostiene che per poter fare un accoppiamento e per poter fare in modo che questo accoppiamento risulti un processo, ecco qua, insomma, cioè, diciamo, la gente tipo Bertrand Russell e i descrittivisti linguistici ce la cavano facile, perché dicono, vabbè, anche sulle serie, sul film non sappiamo bene come mettere, prima o poi tiriamo sull'altra, riusciremo a fare l'accoppiata perfetta, l'accoppiata perfetta. Come è fatto? Perché tutti gli strutturalisti in ritardo e non in ritardo si sono così entusiasmati quando hanno scoperto il DNA? Il DNA, perché? Triplet, accoppiate, è stato lì, biochimica, molecola, arrivano gli scienziati, ci dicono come è fatto, il DNA è un perfetto modello di codice, cioè è accoppiamento significato. Già dati, accoppiati tutti una volta, non c'è dentro al modello del DNA questa roba che dice Lévi-Strauss del significante fluttuante, e così non c'è dietro al pensiero dei diritti logici del primo Wittgenstein, di Bertrand Russell, di Carnap, c'è tutta gente qua. Il secondo Wittgenstein, era una persona intelligente, si ricredette e buttò via non tutto, ma gran parte di quello che era scritto nel trattato e di tutt'altro genere. Però, diciamo, questa forma di pensiero che presuppone la coppiata, ecco, non ci siamo arrivati perché siamo un po' deficienti, ma prima o poi ci arriveremo, accoppieremo tutti i diritti con tutti i significati, accoppieremo il linguaggio col mondo. Qual è il compito della filosofia, secondo i signori? Eliminare le ambiguità, uccidere e fare in modo finalmente che emerga la trasparenza. Tutto il mondo è un enorme casa di cristallo. La gran parte. La gran parte. Coloro che non la pensano così sono delle tendenze marginali della teologia. E spesso anche a noi... Ci spiega invece Deleuze, dice no, le cose non stanno così, e fa riferimento a una scena di Attraverso il Specchio in cui Alice sta in un negozio, che si chiama il negozio della pecora, in cui cerca di individuare un oggetto suo scaffale, e dice questa pecora che è la proprietaria o collega che esiste nel negozio, no, vedi quell'oggetto, sta lì in quello scaffale. Alice prova a scaffale e questo oggetto nel momento in cui lei arriva da là non c'è. Ma come non c'è? Dice, guarda che vuoto, non c'è nessuno c'è. Altri dice, giusto, c'è ragione, si fa la pecora, sta nell'altro. Ah bene, fa Alice, si sposta nell'altro, guarda l'altro, dice, oh, ma non c'è di nuovo qua, è vuoto pure questo. Guarda l'altro e nell'altro c'è qualche cosa. C'è un curioso gioco in questa scena in cui gli oggetti si spostano senza che Alice se ne accorga da uno scaffale all'altro e lasciano sempre uno scaffale vuoto, che è lo scaffale in cui Alice sta cercando in quel momento. Bene, è questo posto vuoto, dice lui, è proprio il significante fluttuante che dice Lévi-Strauss, ed è la condizione per la quale ci possa essere il processo di conoscenza, per la quale ci possa essere il processo di significazione. Cioè l'accoppiata significanti e significati è relativa, è transitoria. Dipende dalle condizioni. Quando Alice sposta la testa e cambia il punto di vista, non è più quello che era prima, è cambiato. E gli è cambiato qualcosa sotto il naso, c'è una nuova... ecco perché io sostengo che, suppongo, dico io, non lo so, che Lévi-Strauss non abbia più usato questo geniale concetto del significante fluttuante, che lui declina, vedete, adesso non ho fatto il pulci, ma insomma declina in maniera universalista pure quando lo racconta, perché dice no, perché tutte le società hanno qualcosa, insomma, eccetera, lui eccetera. Però il dispositivo che mette in campo è obiettivamente un dispositivo, diciamo, posso dire diabolico nel senso diabolico nel senso etimologico, che voi sapete qual è il termine diavolo. E qual è il contrario di diavolo? Non è diabolus, no. Deriva dal greco, dia, divide. Ballein, divide. Dia, ballein, cos'è che invece che unisce? Com'è in greco? Unire, sincretismo, sin, sim, ballein, simbolo. Il contrario di diavolo è simbolo. Il diavolo è il nemico del simbolo. Il simbolo è quello che unisce. Sim. Con lei, il diavolo è quello che separa, via da lei, il diavolo separa. Allora, il perché dico che è diabolico questo concetto? Perché obiettivamente è un, diciamo, concetto che ci spiega un possibile, descrive un dispositivo della relatività dell'accoppiamento. E quindi è incompatibile con l'affermazione di una qualche universalità positivamente descrivibile. L'unica universalità descrivibile davvero in base al ragionamento di Lévi-Strauss, ancora di più se è interpretata nel senso che vedo prima da Deleuze, è l'esistenza di questo posto vuoto, l'esistenza di un significante fluttuante, l'esistenza di una eccedenza, è la funzione dell'eccedenza che spiega, giustifica e per quello che è possibile descrive in maniera, diciamo, generale. Certo, è possibile dire che questo meccanismo dell'eccedenza può essere una descrizione di noi dall'interno ad un certo punto della cultura occidentale, alcuni, diciamo, di noi, quelli bravi, insomma, quelli che se lo possiamo permettere, hanno, diciamo, trovato. lavorando in che cosa? Vedete che Levi Strauss lavora su di un materiale che ai suoi tempi è considerato un materiale di scarto. Le credenze superstiziose e molto poco razionali delle culture primitive. Anche Malinowski, se voi leggete Argonauti del Pacifico, è un'opera importantissima per la descrizione delle cose polinesiane, ma l'atteggiamento di questo vecchio signore di origine polacca che occidentale fino al midollo, che vive per non so quanti anni in questa cosa, ma vive sempre nella sua casetta sulla collina, vestito all'europea, insomma, e osserva, guarda le sue cose, impara la lingua, eccetera, eccetera, ma sempre con... Ed erano tutte cose considerate l'infanzia del pensiero, no? Il positivismo gradualista e progressivista, quando ha iniziato questo nuovo campo, diciamo, di studi, l'etnologia, l'antropologia, a parte che era sincera soggettivamente, ma sulla base di un pregiudizio stupido, e oggi possiamo dire anche offensivo nei confronti dei popoli e delle culture che studiamo, cioè nella convinzione che fosse utile per noi occidentali studiare quelle popolazioni perché esse rappresentavano la nostra infanzia e noi perché rappresentavano uno stadio che noi occidentali avevamo superato ormai da tempo, eravamo giunti finalmente alla posizione di Malinowski, con il nostro caschetto coloniale, calzoncini corti, carabina, come Tartaran e Tarascon, nel romanzo di Dodé, a Marsiglia, ma sempre colonialismo è. E che quindi però noi, non avendo più esperienza diretta della nostra infanzia, perché se avendola già superata, siamo fortunati a poter trovare questi primitivi popoli rozzi, senza la scrittura, senza la nostra capacità, senza la filosofia, senza la storia, senza l'arte. Poi arriva Picasso, che di picche prenche... che vede le maschere africane e gli fa una demoiselle d'Avignon uguale alla maschera africana e all'improvviso tutto si nobilita e diciamo si capisce che questa però anche di caso bisogna dire che non l'ha fatta in modo privo di pregiudizi etnocentrici, perché ha preso quel materiale lì ma l'ha messo dentro la sua bella tradizione della pittura di cui lui era ben cosciente, come ovvio, e quindi in qualche maniera l'ha integrata, quindi il pregiudizio è interpretato, ma bisogna dire che quando comunque Marcel Mostre al 1905, siamo molti anni fa, insomma il 1915, scrive quello che scrive in una situazione certa, fa un grazie, ci vuole del coraggio intellettuale da parte di un vecchio signore che non si è mai mosso da Parigi e che legge i resoconti di queste esperienze in terre così lontane, di essere in grado di fare un collegamento tra le categorie concettuali di quelle culture, tipo il Mana, e non leggerle come delle pizzerie, interessante, il paffato, la pizzeria lì, la bambina, che è la pizzeria che ha, cosa? Non voglio sparare su una croce rossa, è pieno il mondo di esempi di questo tipo, certo. Sono sopravvissuti, adesso Marcel Mossa ha lavorato fino al 1915-16, quando è stato, Lerisosa ancora negli anni 80, questo articolo scritto nel 90, e Rossi la ristorante dell'Inx, però questo non vuol dire che questi pregiudizi non siano sopravvissuti in altre, in altre cose. Vabbè, comunque insomma, io l'essenziale di quello che dovevo dire mi sa che l'ho detto. Non abbiamo fatto test, però non avevo tempo. Ciao, scusa, sì, 5 minuti. Allora, non so bene cosa fare la volta prossima, se discutere della domanda di Fabio. Comunque, non so, su queste robe mi sa che non mi fermo però più di una lezione o due. Poi facciamo quello più divertente, insomma.